versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo lunedì 8 di giugno, sono le 16.31, primi 47 secondi. Anche la puntata di oggi, ve lo dico subito, continuiamo a dedicarla alla vicenda romana, ma nel frattempo è passato un fine settimana in cui sono comparse tonnellate di nuove intercettazioni particolari, eccetera eccetera, dopo la seconda retata dei 44 esponenti agli arresti che ha rilanciato lo scandalo della cosiddetta mafia capitale. Io ricordo a tutti che tra gli articoli che sono usciti, tra gli editoriali anzi che sono usciti, alcuni mi hanno particolarmente colpito, e voglio dirlo, la mia tesi conta poco, ma la mia tesi è che sia impossibile e inopportuno non andare a votare a Roma e non sciogliere questo consiglio comunale gravato comunque da rappresentanze trasversali di questo nucleo di potere opaco che ha questo peso all'interno della vita pubblica e dell'amministrazione pubblica capitolina, riconoscendo certo fino a questo momento Marino comunque è immune da questa vicenda, quello che volete, però la mia opinione è che non sia possibile evitare questa mossa e che sia giusto farla. Allora mi hanno molto colpito, poiché la penso così, e naturalmente la mia opinione non è detto che debba coincidere né con quella della politica né con quella della maggioranza di voi in ascolto, né tantomeno con la maggioranza dei romani, non lo so, però voi telefonateci e dateci la vostra opinione, 800 24 00 24. Mi hanno colpito tra gli altri due commenti che sono venuti da persone molto equilibrate, cioè insospettabili di avere, per così dire, considerazioni politiche per la testa, di essere più o meno vicine, estranee o oppositrici rispetto all'attuale maggioranza che governa Roma con Marino sindaco. E il primo è stato il pubblico ministero procuratore di Venezia Carlo Nordio, che scrive per il Messaggero, che ieri ha scritto un bellissimo articolo. Carlo Nordio per me è un punto di riferimento perché è un garantista, è uno dei pochissimi magistrati italiani che non si ritira mai nel dire che anche la magistratura fa molti eccessi e che la tendenza italiana di dire risolviamo tutto aggravando le pene non è la soluzione dei problemi italiani, è una specie di pecora bianca, non pecora nera, ma pecora bianca rispetto a moltissimi altri suoi colleghi. Eppure ieri Carlo Nordio, rispondendo indirettamente per esempio a chi come il Foglio pensa che la vicenda di Roma sia enormemente gonfiata dai media, in realtà è una storia di intrallazzi e scandaletti, ma non vale tutto questo impatto che i media stanno dando, a cominciare dalla contestazione del tipo di reato associativo che è applicato dalla Procura di Roma, ebbene Carlo Nordio ieri ha scritto dicendo: beh, io pure che sono abbastanza, come devo dire, critico rispetto all'eccesso di fattispecie penale applicata più che altro per avere più poteri dai PM nella fase delle indagini preliminari, dico che tutto quello che sto vedendo emergere tra cooperative bianche e rosse, esponenti della destra e della sinistra, è un salto purtroppo di qualità negativa, perché passiamo dalla forza di intimidazione della forza di poteri politici nei confronti dell'amministrazione imprenditori a una forza di intimidazione di tipo mafiosa verso la politica. Parole testuali di Carlo Nordio, si può essere d'accordo o meno, ma a me ha molto colpito. Secondo editoriale di un giurista straordinario come Sabino Cassese sul Corriere della Sera, e Sabino Cassese ha scritto: non ci possiamo permettere, a maggior ragione perché c'è il giubileo che arriva, poi perché c'è la candidatura alle Olimpiadi 2024 a Roma, di passare mesi, un anno, due anni sospesi in questa condizione. Sapete che è l'opinione del PD e del sindaco Marino, perché anzi al contrario ci sarebbe bisogno, ha scritto Sabino Cassese, di una legge straordinaria per commissariare straordinariamente Roma, proprio perché è la capitale e perché bisogna fare, da quello che si vede dalle indagini, una pulizia approfonditissima nella sua macchina amministrativa, oltre che nella rappresentanza politica. Ecco, queste due cose mi hanno molto colpito. Però, detto questo, mi è sembrato giusto oggi riflettere con una voce che sui giornali ancora non si è sentita in questi giorni, cioè di colui il quale, candidandosi a sindaco due anni fa a Roma, rilasciò interviste e dichiarazioni che all'epoca destarono un enorme scandalo, perché si disse che lui esagerava. E il Corriere della Sera, che ne aveva riprese quelle dichiarazioni, andate a controllare, due anni fa, quando c'erano le elezioni a Roma, riportò che questo candidato sindaco che veniva dalla società civile e non dai partiti si candidava proprio perché sentiva intorno alla politica e dentro la macchina amministrativa a Roma un'aria mafiosa. Successe l'ira di Dio, gli dissero che era classicamente un'esagerazione. Non credo che si possa sostenere alla luce dei fatti e dopo retate su retate che esagerasse. Era ed è ancora ovviamente Alfio Marchini ed è ai microfoni con noi oggi per farci capire come la pensa. Buon pomeriggio e grazie Alfio Marchini. Buon pomeriggio a voi. Allora, ripetiamo, perché 2 anni fa lei parlò di quell'area mafiosa? Beh, era evidente, gli dici 2 anni fa 2 cose. Uno, che si sperava a Roma una, diciamo, insopportabile area mafiosa, nel senso che era palpabile quello che è un vero e proprio vuoto di scambio. Cioè, dietro, al di là del fatto criminale che oggi emerge, c'è un fatto ancora peggiore. Cioè, di fatto c'era un ritorno di voti che venivano dati in cambio di posti di lavoro, cortesie, perché poi insomma, le migliaia e migliaia di persone che avevano dei benefici o tramite le assunzioni, tramite diciamo, organizzazioni più ampie, sicuramente ricambiavano questo vantaggio come dare il loro voto. Questo era evidente ed era assolutamente palpabile. Tutti quelli quali oggi si scandalizzano non so dove vivessero. Scusi, è sempre brutto citarsi, ma nell'appello finale su Sky maggio 2013 dice una cosa molto semplice: questi signori di giorno fanno finta di litigare, di notte spartiscono assolutamente tutto, ed è assolutamente evidente. Quindi diciamo, quello che oggi vedo è una non notizia, e le dico di più, secondo me è solamente la punta di un iceberg, perché quando mi sembra il prefetto dice un aftershock, nel senso che è il secondo cazzotto dopo quello che è uscito a novembre, gli dico forse però di un filone, giorno in cui cominciano ad aprire anche i cassetti per quello che riguarda esempi, lavori pubblici eccetera, a mio avviso il spettacolo sarà uguale se non peggiore. Ora, voglio dire, sì. Scusi, voglio dire, io Nordio è persona seria e per bene e competente, è sempre stato un garantista, quindi sì. Se dice uno del genere penso che sia con cognizione di causa. Sabino Cassese idem. Il problema qui non è fare i moralisti contro il PD o contro Marino, il punto è dare agibilità politica a chi deve governare una città, perché vede, se lei va in giro per la città, che cosa vede? Vede erbaccio ovunque, immondizia ovunque, il verde che non viene gestito e fatto manutenzione. Questo perché? Perché se l'unico modo per non scivolare in qualche passo falso dell'amministrazione Marina è quello di non fare nulla e lasciare la città allo sbando, gli dico che così non si può andare avanti. Allora, il prefetto Franco Gabrielli oggi sul Messaggero rilascia un'intervista il cui titolo sul Messaggero è «Le elezioni non bastano per fare davvero pulizie». E poi aggiunge: «Dalle intercettazioni emerge che nella macchina amministrativa della capitale c'è vasta illegalità». Allora, la tesi che le elezioni non bastano io posso anche capirlo, ma allora mi viene in mente che ha ragione a maggior ragione Sabino Cassese, che c'è bisogno proprio di una decisione politica nazionale visto il rilievo che ha la capitale. Ma non ne dedurrei che però siccome le elezioni non bastano non bisogna farle, lei che dice? Ma io dico che dobbiamo decidere se siamo in una democrazia o meno. Allora io credo, siccome il suffragio elettorale è la grande delega che i cittadini danno a qualcuno, nel momento in cui emerge chiaramente uno spettacolo del genere, io penso che sia fondamentale dare la possibilità a chi esprime il proprio voto di dire quello che pensa, a chi delega e perché lo delega. Ovviamente c'è un livello di corruzione che è, e do dei numeri, ancora oggi il Comune di Roma è impegnato dai suoi dirigenti per investimenti o spese fuori bilancio, vuol dire senza copertura finanziaria e senza autorizzazione, per 400 milioni di euro. A oggi non sono cose vecchie. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se lei va in giro per la città, al netto dei lavori per la metro, che non sono inclusi in questi cifre che io gli dico, vuol dire che qualsiasi dirigente oggi a Roma può impegnare il comune per qualsiasi importo senza avere né l'autorizzazione né la copertura. Quindi anche Isabella ha ragione quando dice che effettivamente oggi anche chi governa politicamente non ha gli strumenti per intervenire e esempio rimuovere con il quale ha fatto quell'impegno. Quindi che ci sia un problema non ve ne dubbio, ma la mia critica politica che cosa dice? Dice che io dissi che la prima cosa che andava fatta era la riforma della pubblica amministrazione, della macchina burocratica amministrativa del Comune di Roma, perché se questo problema fosse stato affrontato un anno fa, oggi quei dirigenti che hanno dei comportamenti poco corretti potevano essere cambiati. Se sono passati 2 anni e ancora oggi stiamo dicendo che vanno fatte alcune cose, io temo che tra 2 anni saremo esattamente al punto di primo. In sintesi, c'è un problema anche di dare la possibilità a chi fa politica di farla. Le faccio esempio. Oggi un consiglio comunale, anche chi le parla, anche se mi accusano che ci sono proprio in consiglio comunale, con chi parli? arriva il capogruppo del PD, tu non sai se ci parli o meno di Forza Italia IDE, ma non dico di tutti i vari partiti. Allora uno che deve fare? Deve mandare una mail alle forze inquirenti, ai carabinieri, alla procura, dicendo: il presidente della commissione, ovvero il capogruppo, mi vuole incontrare, che devo fare? Lo devo vedere o meno? Cioè l'agibilità politica in questo clima è assolutamente non consentita e non garantita a chi vuole fare politica in modo serio. Allora, veniamo a una considerazione politica. Fino a qui, poi vediamo, perché oggi ha annunciato un nuovo vertice nazionale del PD con Marino, con Del Rio, Serracchiani e così via. Però fino a questo momento è sembrato di capire che il vertice nazionale del Partito Democratico e il presidente, nonché commissario del Partito Democratico a Roma, Orfini, dicessero, fossero dell'opinione, no, meglio non votare. Il sottinteso non dichiarato era perché se andiamo a votare adesso veniamo tutti i partiti tradizionali vengono travolti, e come fare un regalo ovviamente a 5 Stelle, anche a lei e così via. Allora, questa considerazione di frenare sul voto perché altrimenti vince la cosiddetta antipolitica, anche se mi chiedo se quella invece sia la politica da difendere, quella attuale, che impressione le fa? Beh, guarda, innanzitutto io cerco sempre di essere obiettivo anche in queste situazioni. Mi sembra anche, come dire, legittimo un certo orgoglio da parte del PD, che vuol dire non siamo tutti ladri e quindi ci sono anche delle persone per bene e delle persone che hanno delle responsabilità apicali che sicuramente non sono compromesse con quello che sta emergendo. Quindi è anche, come dire, comprensibile che cerchino di dimostrare che non è tutto uguale e che non sono tutti ladri. Ma è l'aspetto che appunto le sottolineo, qui non è una didattica per capire ciò che è più opportuno per quel partito, più giusto legittimamente o meno. Il problema è molto semplice, io lascio il giudizio a chi deve commentare e lascio le indagini agli inquirenti. Io ho un problema di dare la possibilità a questa città di essere governata. La domenica prima che uscisse questo scandalo dissi, quindi fuori da ogni possibile speculazione, che la città era allo sbando e che bisogna mettere la città in condizione di essere governata. Oggi queste condizioni non ci sono. Cioè l'aspetto importante che un amministratore e un politico deve avere qual è? Tu hai una città che è la capitale dell'Italia, che è in un declino assoluto, che ha degli eventi straordinari di fronte a sé. Chiunque di noi va a Londra, a Parigi, ha un attacco di invidia enorme, non si capisce perché la nostra capitale debba essere così abbandonata. Il punto politico non è a chi convenga, il punto politico è: visto che oggi c'è una difficoltà, quali sono le condizioni affinché si possa governare questa grande capitale per ridarle quel lustro che è fondamentale avere? A oggi non v'è dubbio che non ci sono le condizioni affinché questa città possa essere governata. Allora, siccome siamo in democrazia, lo vuoi fare tra 6 mesi, lo vuoi fare fra un anno, vuoi dare il tempo che le indagini abbiano il loro corso, vuoi fare un tempo di commissariamento per un anno, non perché Marino sia un ladro, ma perché si possa avere un quadro chiaro e i cittadini possono votare non sulla onda emotiva ma su basi obiettive, come vuoi, ma la preoccupazione che io mi aspetto da una grande forza politica è quella di dire al primo posto l'interesse dei cittadini, della capitale, e creare le condizioni affinché possa essere governata. Questo oggi non c'è. Cioè tutto tranne che andiamo avanti e facciamo finta di niente. Allora, intanto adesso 60 secondi di informazione stradale, poi continuiamo e ci sono anche le vostre telefonate in arrivo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:46, primi 23 secondi, sms un po' dispersi come opinioni, le più varie e diverse. C'è chi mi fa notare che sarei diventato un sostenitore di Grillo, non capisco come, cioè scusate, qui c'è un'evidenza di trasversalità criminale e di traffico di carne umana con denari pubblici discrezionali, no? In una città in cui la raccolta differenziata costa quasi 4 volte rispetto a quello che è nella media dove funziona, e quindi mi dispiace, non mi ferma l'argomento ora incassano i voti quelli della protesta, di fronte all'evidenza di una politica che a Roma è fatta così. Ripeto, a essere arrestati sono quelli che prendevano più voti di preferenza, cioè il vicepresidente del Consiglio Comunale, un ex presidente del Consiglio Comunale, ex assessori di destra e di sinistra, mister preferenze, capite, tredicine e così via. Non stiamo parlando di persone sconosciute imbarcate dalle liste di grandi partiti partiti di destra e di sinistra, rispetto ai quali chi era il capo di quei partiti dicono: beh, cioè, che sorpresa, non ne sapevamo nulla, era un esterno che ci ha sorpreso per i voti. Stiamo parlando di una scelta di candidati che imbarcavano un mucchio di voti ai grandi partiti di qua e di là. La commistione di cooperative bianche e rosse, cioè linee e rosse, con Buzzi e Carminati, è una roba che descrive un sistema di potere. Allora, non è che uno dice adesso non ne parliamo perché sennò si avvantaggiano gli oppositori. La democrazia significa ne parliamo perché è un bubbone gigantesco. Questa è la mia opinione, posso sbagliare ovviamente. Poi ci sono anche negli sms molti sostenitori del sindaco Marino, che dicono: sbagliate a voler travolgere il sindaco che anche dalle intercettazioni risulta estraneo e immune. Per carità, io non è che ho detto il contrario, però il problema è che l'attuale rappresentanza politica è inficiata da meccanismi di qua e di là. Poi voi pensate che si può fare senza facendo finta di niente? Possibile, io la penso diversamente. Sentiamo qualche altra opinione direttamente al telefono e poi torniamo a fare commentare le vostre opinioni da Alfio Marchini. Cominciamo con Angelo che chiama da Venezia. Prego Angelo. Buongiorno, buongiorno a chi ti ascolta. Sì. Io volevo osservare questo, proprio perché lo scandalo di Roma è uno scandalo trasversale che colpisce più o meno tutte le amministrazioni che hanno gestito Roma in questi ultimi anni. Perché invece che eliminare il sindaco che sta facendo emergere questi problemi, non prendiamo un Marino e non lo mettiamo in tutte le amministrazioni d'Italia? E lo chiedo in modo provocatorio, sì, ovviamente. Ma quello che voglio dire è che la politica alta, forse dovrebbe dare gli strumenti a un sindaco per poter gestire un problema del genere, piuttosto che lasciarlo da solo ad arrangiarsi in una questione di questo tipo, perché io non credo che il problema di Roma sia solo di Roma. Ok, naturalmente Angelo, la mia controrisposta, sono d'accordo con lei, per esempio per me la riforma della PA, Madia è attualmente in esame al Parlamento, non dà ancora quegli strumenti per ruotare brutalmente tutti i dirigenti pubblici. Detto questo, non è che io voglio levare la libertà del PD, se vuole, di ricandidare Marino, però con un consiglio comunale che esca da un lavacro purificatore con gli elettori che siano in grado di dire questo e questo e questo non li vogliamo più. Ecco, tutto qua. Cioè la sua strategia non è alternativa a noi che diciamo però la politica nazionale prenda una decisione e la prenda all'altezza della gravità di questo problema. Totalmente, opinione mia. Sentiamo Augusto da Roma. Augusto, prego. Sì, io così sentendo gli interventi mi è venuto a memoria un bellissimo articolo di molti anni fa uscito sul Sole 24 Ore a firma di Cipolletta, che ipotizzava se uno avesse avuto il potere improvviso di prendere in mano l'Italia e cambiarla, sosteneva che non avrebbe mai potuto cambiare tutto improvvisamente, certo, se no il rischio sarebbe stato di praticamente fermare completamente il sistema. E le considerazioni che sento mi sembrano sempre di grandissima superficialità, come se improvvisamente una sola persona potesse con la bacchetta magica risolvere tutti i problemi. Forse sarebbe più serio in un momento di crisi che le altre forze politiche cercassero di trovare i migliori e si mettessero a disposizione rimboccandosi tutti le maniche, perché tanto andare alle elezioni, io non sono un elettore di Marino, sono un elettore di uno dei partiti dell'antipolitica, sì, però mi sembra che poi smontare ogni volta il giocattolo e rimontarlo di nuovo, non arrivando veramente a fare quello che serve, cioè cambiare passo passo un sistema che è completamente inefficiente, oltre che marcio, e forse è più grave che sia inefficiente, mi sembra come minimo una scorciatoia infantile. No, no, ho capito. Lei dice ok. Sentiamo ancora Mario dalla provincia di Alessandria. Prego Mario. Salve, io sono stato per molti anni un amministratore nonché sindaco di un comune piccolino, tutto quanto, ma quello che lei sosteneva all'inizio della trasmissione, il pensare che con un colpo di magico di bacchetta andiamo alle elezioni e tutto cambia, ma è radicalmente sbagliato. Quella situazione, la situazione di Roma, purtroppo, per risolverla, se si riuscisse, ci vogliono dei sistemi draconiani, ossia, ahimè, ahimè, sospendere la democrazia e che ci sia solo uno solo che comanda e decide e pulisce e taglia quel bubbone dove deve essere tagliato, perché gli amministratori alla fine sono delle pedine in mano a dei grandi dirigenti, perché tutti gli impegni di spesa, tutti gli appalti o che roba li prendono i dirigenti, ho capito, e non gli amministratori. Però Mario, aspetta un secondo, perché qua dalle indagini esce fuori che politici, amministratori e da fuori quelli delle cooperative, era una bella filiera, non è che erano i funzionari pubblici corrotti da soli. Detto questo, se il lavacro elettorale, che non è la soluzione di tutto, è velleitario, dire uno che risolve da solo tutto, non lo so cosa sia, ma questa è la mia opinione. Allora, sentiamo Alfio Marchini di fronte a questo ventaglio di opinioni, che impressioni ha? Allora, guarda, innanzitutto se io fossi Marino, proprio perché sono convinto che sono nel giusto, cioè il primo a rivendicarla con forza il diritto di ricandidarmi per avere un sostegno popolare molto più forte. Secondo, io ho detto, e l'ho detto ormai da un anno e mezzo, che serve un commissariamento proprio perché serve qualcuno che, sganciato da ogni rapporto di interesse politico, di avere dei voti o meno, perché è proprio una funzione sganciata dal consenso, abbia la forza per poter fare quelle scelte impopolari che oggi a mio avviso servono. Cioè, la denuncia che io feci, come lei giustamente ha ricordato, 2 anni fa, di un clima mafioso con un voto di scambio può essere rotto in modo forte o da un pazzo come il sottoscritto che lo fa, perché poi cioè, oggi un signore che si candida a fare consigliere comunale a Roma, c'è cioè una sproporzione tra quello che spende e quello che guadagna come stipendio vero e proprio. Allora è evidente che dietro c'è qualcosa di tipo diverso, no? È evidente che ci sono poi delle cortesie che uno deve ricambiare. Allora io ho detto, e lo ripeto, che a mio avviso andare a elezione domani mattina no, perché forse sicuramente hai anche un'onda emotiva e non bisogna dare mai la possibilità alla gente di scegliere. Però una decisione politica alta per consentire una cornice di ripulizia. Esattamente. Poi dopo, se red di tu governo che Marino sia una persona straordinaria, nomino commissario, ma è lui. Io non ho nessun problema, cioè, chiarissimo. Io però reputo che sia fondamentale in questo momento in cui non c'è agibilità politica. Cioè, io sarei disonesto a dire che oggi un consigliere comunale di Roma è nelle condizioni di svolgere la propria funzione. Oggi questo non c'è. Com'è così? D'accordo. Bisogna fare qualche cosa che ricrei le condizioni affinché chi è stato eletto possa svolgere la propria funzione politica. Oggi questo non c'è e va detto con umiltà ma con senso di realtà. Allora, speriamo solo che opinioni come queste vengano raccolte, ascoltate e meditate dal governo, che dovrà decidere, visto che poi il prefetto dovrà fare una relazione. Naturalmente vedremo come andrà avanti questa vicenda. Continuate con Radio 24, grazie ad Alfio Marchini, appuntamento con me a domani.